Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 26 marzo, il sabato prima della Pasqua. Noi siamo in diretta comunque, gli allegri compari dei conti della Belva, quindi Oscar Giannino che vi saluta, vi ringrazio. In studio con me Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Mentre invece il nostro compare Carlo Alberto Carnevale Maffè si è perso per una motocicletta rotta in Val d'Aosta, ma è arrivato a telefono. Buongiorno sì, Carlo Alberto. Ciao ragazzi, ciao. Ho un lutto meccanico oggi. Hai un lutto. Se tu comperassi delle moto serie, ma invece non è di vero, quelle moto, c'ha una meravigliosa BMW, ma che scherzi, avercela una moto come quella. Il problema un è bel che ferro, le un bel ferro ci vuole. Le maltratta, questo è il questo punto. Questo è vero. Oscar, ti confesso che hai ragione. Le maltratti, perché tu le sottoponi dei tour de force, tant'è che ti ha mollato. Che cosa ti ha mollato? La frizione, l'acceleratore? Purtroppo sì, frizione partita, purtroppo. Non parliamo di moto oggi, per favore. No, anche perché, credo banche, governo, credo di sapere che il pezzo di ricambio della BMW in questione ha un certo prezzo. Ma comunque vabbè, detto questo. Allora, noi siamo comunque in diretta. In diretta sentiremo più avanti. Beh, come Carlo tutti. Alberto è performing long, quindi non è no, dai, tenta di pagare i subordinati adesso. I tedeschi, infatti, della BMW non lo prenderanno da Aosta questo pagamento. Però detto questo, poi avremo anche collegata da Pechino, come sempre dalla Cina, la nostra Rita Faticosa, quindi noi siamo qua e come sempre, cari ascoltatori, vi invito a telefonare all'800240024 e a darci le vostre opinioni al 349-238-6666, brevemente riepilogandovi i temi che tratteremo in questa puntata. Come sempre, all'inizio, con il nostro Mario Seminerio e tutti insieme faremo punto su, gli aggiornamenti delle cifre della crisi nel nostro paese e parleremo però anche di sviluppi che sono in corso di una certa importanza su un capitolo nel quale abbiamo qualche giudizio critico, per così dire, da esprimere su come si comportano i regolatori italiani e insieme anche il sistema dell'informazione italiana per l'evoluzione di quello che avviene appunto nel sistema bancario. Daremo qualche giudizio e qualche impressione sul fatto che di dover apprendere dopo mesi i particolari delle risoluzioni dello scorso novembre delle quattro banche, perché quello che sta avvenendo sulla distanza di mesi e a spizzichi e bocconi, nonché sulla vicenda che riguarda la fusione con aumento di capitale per il Banco Popolare, fusione con il Banco Popolare di Milano, vicenda alla quale si è arrivati dopo una serie incredibile, veramente sembrava oggi le comiche, di autocontraddizione delle due banche stesse, dei giornali italiani, e alla fine ci si è arrivati invece dicendo sì alle condizioni posta alla BCE, ma non in maniera autoritativa, semplicemente perché sono le regole vigenti che tutti fanno finta di ignorare, ma si sono presi comunque 8 mesi per fare questa fusione. E in più ci sono altri particolari ancora sui rimborsi ai risparmiatori che sono capitati con le manine nella trappola delle quattro banche risolte. Ne parleremo di questo e non solo di questo con uno dei nostri ospiti che abbiamo più avanti, cioè con il viceministro Enrico Zanetti. Insomma, continueremo a stare anche su questa vicenda delle banche. Dopodiché dedicheremo un pezzo della nostra trasmissione all'analisi di cosa è possibile stimare come effetti sull'economia di questa nuova ondata di attentati terroristici. Se uno va a vedere le serie storiche, il post 11 settembre del 2001 negli Stati Uniti ebbe un effetto positivo sul PIL degli Stati Uniti, ma è così o il fenomeno è diverso, visto che c'è un rallentamento mondiale dovuto a 4 altri grandi fenomeni e questo sembra più che aiutare la crescita del PIL, sembra rappresentare una nuova frenata, e con ne parleremo con Goldstein di Nomisma, e poi ci allargheremo in un altro blocco sulla finanza pubblica italiana, appunto con Enrico Zanetti, che queste settimane abbiamo visto anche dire: ma forse è il caso, caro governo, di ripensare al bonus 500 euro per i diciottenni, visto che pensare che i moniti della BCE sul nostro deficit e debito siano vani e forse un eccesso di ottimismo, pensare di poter fare 2,3-2,4 di deficit anche nel 2017, forse anche questo è un eccesso di ottimismo. forse è il caso di avere qualche criterio un po' meno colloquio alle elezioni, un po' più al rigore. Allora, questi più o meno i temi su cui vi invito a telefonare. Innanzitutto, se siete azionisti di BPM e Banco Popolare, chiamateci per dirci come la pensate. Poi, ovviamente, cosa temete per gli effetti economici del terrorismo, e poi anche ovviamente se inneggiate alla linea deficitista del governo, oppure pensate, come dice oggi nella sua intervista a Repubblica Lars Feld, consigliere della Merkel, attenti cari italiani, perché voi rimanete su un percorso per cui il debito pubblico italiano può arrivare persino al 150% in qualche anno. Al 150% diventa una mina per l'euro e voi diventate out, cioè diventate impresentabili, toni un po' duri, per così dire. Che cos'altro ci ha, oltre a questi temi, colpito in questa settimana, Mario? Allora, mi ha colpito, vabbè, poi parleremo delle giravolte della Banca d'Italia sul caso delle quattro banche risolte, perché io sono abbastanza inquieto, diciamo, temo che la Banca d'Italia stia perdendo la bussola anche altre cose. Però mi ha colpito il fatto che, per quanto riguarda il referendum no trivelle, il Consiglio regionale della Puglia aveva tentato di approvare una delibera in cui venivano stanziati 250.000 euro di soldi pubblici per fare informazione, immaginate voi da quale lato, sul referendum. Siccome c'è stato qualche spiritoso che ha replicato invocando l'articolo 21 della nostra Costituzione con 3Z e altre cose, quando in realtà quei fondi sarebbero stati usati non per fare campagna conoscitiva delle due posizioni, ma per fare propaganda alle ragioni di una e una sola parte, perché è vero che la regione è proponente del referendum, però non bisogna dimenticare che la regione è e resta un'istituzione. Allora, mossi, diciamo, a compassione o preoccupati dalla reazione che stava montando, i nostri eroi hanno deciso di non spendere 250.000 euro di soldi pubblici, ma di autotassarsi e ricavare 50.000 euro per fare propaganda. A favore di quale parte, lascio intuire a voi. È proponente il Consiglio. Ma per l'ennesima volta in questo paese si fa confusione tra il partito o la fazione e l'istituzione. E questa è una cosa che, per chi, diciamo, tenta disperatamente di tenere in piedi un minimo di insegnamenti liberali, è una cosa disperante. Perché noi abbiamo, in questo paese abbiamo intere regioni dove il partito coincide con l'istituzione regionale. Di solito è la ridotta appenninica, come la chiamavano una volta, però vedo che no, si è espansa. La cosa si sta diffondendo e soprattutto la guerra per la segreteria del PD sarebbe bene che non coinvolgesse denaro pubblico. No, se la facessero nei loro organi di partito, non in quelle istituzioni. Facciano il fundraising per i cavoli loro, soprattutto. Lo so. Un'altra cosa, Oscar, ultima cosa. Ho visto che al largo delle coste tunisine c'è una piattaforma che perde petrolio a 120 miglia da Lampedusa, quindi io suggerirei di estendere il referendum anche in Tunisia. Sì, peccato che quella lì è quella della Thailandia, ma quello è un altro discorso. La foto era della Thailandia. Un grande la mondo foto era della Thailandia. Sì, ma tu lo sai che sui social si sprecano questi tentativi di polemica. Carlo Alberto, invece, cosa ti ha colpito? Guarda, questa settimana ho avuto una singolare tensione con gli amici di Istat, perché chiedevo lumi sulle profezie fatte da Tito Boeri sul fatto che le aziende che non hanno potuto far uscire i lavoratori più anziani non hanno potuto neanche assumere i giovani, secondo i dati però segreti che ha citato Tito Boeri, e che questo spiegherebbe addirittura il 40% della disoccupazione giovanile. Ho chiesto a Istat lumi, insomma, se questi dati devono essere pubblici, fateci capire dove. Mi hanno risposto che era sul bilancio di sostenibilità 2014, cosa non vera, poi forse era sui dati della cassa integrazione, che non era vero neanche quello, poi forse sui dati su uno dei contratti, non era vero neanche questo, dove ci hanno detto che vi faremo sapere. Ecco. Non va bene, nel senso che giustificare o sostenere ideologicamente una cosa così controversa, che per carità abbiamo sempre discusso, sono decenni che discutiamo sul tema della staffetta, sui dati che la giustificano o non la giustificano, è un dibattito ancora aperto. Però quando l'Istat esce con una frase di questo genere qua, usando dati asimmetrici, non pubblici, peraltro non delle statistiche ufficiali, ma proprio con un esperimento fatto con aziende che avevano questa possibilità rispetto a aziende che non ce l'avevano, bene, questo non aiuta a usare la statistica come invece base di discussione, come istituzione. E di nuovo mi riallaccio a quello che diceva Mario un minuto fa, usa risorse pubbliche, dati pubblici, beni pubblici come la statistica a scopi ideologici, propagandistici o unilaterali. Questo non va bene perché non è legittimo per nessun partito, nessuna fazione appropriarsi di istituzioni pubbliche. Anche perché poi resta sospetto che evidentemente la tesi così netta, se poi le elaborazioni di Istat non vengono rese pubbliche, non abbia tutto questo fondamento dimostrato anche in questi no. Per questa è la mia, ci aggiungo il mio dubbio, per così dire, epistemologico. Renato. Telecom. Io sono, facendo l'industriale, poi mi piace seguire le questioni industriali, diciamo che tutta la vicenda Telecom, ma a partire da illo tempore, quando alcune persone la scalarono, è veramente una cosa che mi sta... Beh, è una bella parabola in questo caso però di azionisti privati inefficienti, devo dire italiani e non solo italiani. No, ma no, gli infatti, italiani ci hanno infatti, messo la loro bella... Infatti la cosa che mi fa arrabbiare... Le banche e le assicurazioni di Telco meritano un premio come azionista inadeguato. La cosa che mi fa arrabbiare è proprio l'inadeguatezza del privato sulle, sulle grandi vicende italiane. Che poi diventa naturalmente la campagna aiuto, arriva lo straniero. Di privati che si sono rifugiati nella rendita. Quindi autostrade, telecom senza investimenti, cercando di tirar fuori la cassa finché c'era la cassa e mille altre cose. Dove abbiamo avuto delle privatizzazioni che invece di portare efficienza al sistema hanno portato inefficienze e rendite di posizione. Comunque vedremo, perché la mia tesi è quella di Alessandro Penati. Che detto da un industriale, è una tesi un po' anti-industriale. No, non è una privata, tesi industriale, però, è una tesi che sa vedere anche i difetti del capitalismo italiano, quello di relazione che cerca le rendite, quindi è coerente a quello che pensiamo. Vi dirò che la mia tesi è quella scritta invece da Alessandro Penati, in un bellissimo articolo su Repubblica, che dice: io mi sorprenderei se Vivendi e Bolloré fossero davvero interessati a prendere il controllo pieno di Telecom, e invece la mia opinione è che, dati alla mano e prospettive di questa società, sarebbe meglio se facessero uno scambio, perché più interessati a un altro business, cioè quello dei contenuti digitali e così via. Vedremo se andrà così. Di sicuro è una cosa è certa: come sempre fosse avvenuto sto governo Berlusconi, ci sarebbe stata una reazione dei media completamente diversa. Invece questa volta, siccome c'è stata la benedizione preventiva di Palazzo Chigi, perché questo è stato, no? Ed è stato evidente quando c'è stato un bilaterale tre settimane fa, queste cose qua sono abbastanza normali, perché Renzi, poi la gente si arrabbia. No, beh, no? Se ti incontri con Hollande non c'entra niente che tu la conferenza stampa improvvisamente dici: vedremo senza timori che Orange prenda Telecom Italia. Beh, tutti hanno ascoltato, quasi nessuno ha scritto, io ho scritto bene, vuol dire che dopo invocano l'intervento della Consob. Bravo. Quando scendono le quotazioni di Acea su un giorno solo, esatto, a seguito di dichiarazioni abbastanza fantasiose della Raggi, di Virginia Raggi. Lo stesso Presidente del Consiglio che diceva: comprate azioni in Montepaschi, che è un affare. Certo. No, in pubblico, oppure sono completamente preoccupato, risanata, sono preoccupato per la prima e la seconda banca tedesca, disse in pubblico. Sì. Vabbè, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori. Io vi ricordo che questa notte entra in funzione una delle poche cose davvero legali del nostro paese, cioè l'ora legale. L'Italia riparte. È la volta buona. È merito del governo. Comunque, panico tra i socialisti, no, però... torna l'ora legale. Cuore 1993. Però a Trani non dicono niente. No, beh, la procura aprirà un'indagine, perché esatto, sicuramente si tratta di un effetto di una manipolazione dell'orario, quindi bisogna capire chi ci guadagna e perché. Quindi esatto, il procuratore di Trani sicuramente scatenerà i suoi segugi. Comunque, l'ora legale stanotte, andiamo con la nostra sigletta. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Allora, Mario. Che dire? Come che dire? Vendite, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Sì, due cose volevo dire. Vendite al dettaglio. Questa settimana Istat ha pubblicato il dato. Vendite al dettaglio nell'ultimo anno. In termini, siccome siamo in un contesto di deflazione, è utile guardare il valore reale, cioè di quanto è variato il dato di vendite al dettaglio in volume, cioè depurato dalle variazioni dei prezzi. Nell'ultimo anno -1,6%. Questo dimostra che il commercio al dettaglio italiano soffre terribilmente delle condizioni deflazionistiche, dimostra che la ripresa dei consumi avviene solamente sulla base di stimoli e di tagli aggressivi di prezzi, come dimostra del resto la condizione non particolarmente brillante dei conti in media della grande distribuzione organizzata. Ecco, questo è, visto che noi abbiamo questa querelle su deflazione buona, deflazione cattiva, come sempre diventa una guerra di religione, ecco, questo è un esempio di un tipo di deflazione che magari stimola e rivitalizza in minima parte i consumi, però costa terribilmente a tutte le aziende impegnate nella filiera di distribuzione che, ricordiamo, hanno costi prevalentemente fissi, il maggiore dei quali è il costo del lavoro, che resta fisso. Questo è veramente una cosa su cui riflettere. Guardiamo i dati reali di vendite al dettaglio e vediamo che lì la deflazione sta corrodendo il settore distributivo. E questo ci riporta alla constatazione che facciamo la settimana scorsa con Mariano Bella, esattamente intorno a questo, però il dato che si è aggiunto questa settimana conferma l'interpretazione di Mario. Secondo. Ma l'altro punto è, io prenderei lo spunto da un editoriale comparso su Panorama del professor Michele Tiraboschi, Jus Laborista, sì. Diciamo, non c'è nulla di inedito, perché la posizione del professor Tiraboschi è abbastanza nota da sempre. Cioè, però lui sostiene... ripetita Juvent. No, ripetita Juvent, perché nel... qual è il punto? Il Jobs Act rischia, come abbiamo detto più volte, di essere un costosissimo fuoco d'artificio. Nel senso che quando andrà a scadenza, molti lavoratori diventeranno improvvisamente troppo cari per le aziende che li hanno assunti. Quindi servirà un intervento, diciamo, di riduzione strutturale del costo del lavoro per riuscire a trattenere questi lavoratori. E il governo questo dice, però non vi preoccupate perché lavorando. Noi riabbattiamo la quota. Esatto, delle... ci sta lavorando il sottosegretario Nannicini, che diciamo è il suo lavoro, eccetera. Tra l'altro Tiraboschi segnalava che abbiamo avuto nel 2015 sono stati attivati 1,4 milioni di nuovi contratti a tutele crescenti, esatto, che determineranno nel triennio di vigenza 18 miliardi di costi contro i 15 miliardi stanziati preventivamente dal governo. E quindi c'è anche un problema di buco aggiuntivo da ecco, coprire. Tra l'altro una cosa interessante è che da controlli a campione che stanno venendo effettuati, il 20% di un campione di circa 350 aziende che hanno richiesto i benefici del Jobs Act, diciamo che sono in odore di truffa. Per cui alla fine magari 20%. Riuscire... 20% di un campione di 338 imprese esaminate sinora. Attraverso assunzioni fittizie, contratti di fornitura mediante cooperative i cui dipendenti vengono licenziati e passano a somministrazione, i famosi 6 mesi prima di essere assunti dentro la disoccupazione, eccetera. Questo magari determinerà che alla fine dei giochi i 18 miliardi saranno meno, perché ci saranno molti provvedimenti di revoca del Jobs Act. È molto triste, perché si conferma che questo è un paese dove, diciamo, l'occasione fa l'uomo ladro in maniera non statisticamente trascurabile. Ma resta il problema di fondo, cioè noi abbiamo destinato imponenti risorse pubbliche alla decontribuzione, al contratto a tutele crescenti, in maniera assolutamente estemporanea, e abbiamo un terribile bisogno tra meno di 2 anni, 1° gennaio 2018, di partire con una riduzione strutturale del cuneo fiscale del costo del lavoro, perché altrimenti noi avremo una strage di posti di lavoro. E facciamo notare un'altra cosa, nel 2015 fonte Istat, quindi indagini campionarie, poco più di 180.000 nuovi posti di lavoro generati prevalentemente dalla crescita economica lieve che c'è stata nel paese. Per cui, ripeto, il contratto a tutele crescenti, al di là della struttura che lo caratterizza, rischia per la componente sussidi di essere uno dei più costosi fuochi d'artificio della storia economica di questo paese. Stiamo su questo argomento e seguiamolo nel suo divenire, certo, perché mi sembra molto importante. No, come no. Ma perché... purtroppo questa cosa qua è una cosa che veniva detta da tanti anni e ci voleva una riduzione magari un po' più bassa, ma strutturale non solo per le nuove assunzioni. Invece si è voluto puntare, secondo me, dal punto di vista politico, sulle nuove assunzioni per far vedere i nuovi, per strombazzare, come poi è stato fatto, i nuovi assunti, ma non risolvendo il problema dal punto di vista delle aziende. Sapete che il punto di vista del governo è diverso, dice: noi invece così abbiamo concentrato l'effetto discontinuità e poi lo renderemo strutturale con l'abbattimento delle aliquote. Di mezzo ci sono gli obiettivi di deficit e i richiami che stiamo subendo in questi giorni, ne parleremo più avanti nella trasmissione con Enrico Zanetti. Fatemi dire quattro cose che mi hanno scandalizzato metrificantemente sulle vicende bancarie. La prima è che io rimango senza parole, viva l'intervista di Giulio Anselmi, ex grandissimo direttore e oggi direttore comunque l'ANSA, ma voglio dire che ieri sul Fatto Quotidiano ha dato la vera risposta del come mai l'informazione italiana sta troppo zitta e muta in silenzio, a pecoroni in ginocchio di fronte alle anomalie terribili che continuano ad avvenire nelle vicende regolatorie nel sistema bancario italiano. A un certo punto, richiesto, Giulio Anselmi dice: beh ragazzi, guardate chi sono gli editori e quanto sono nelle mani delle banche o nei quanti di loro anche nei CDA delle banche o quanti dei loro manager collegati, e capirete perché i giornali su questo non stanno svolgendo il loro mestiere. Io dico non stanno svolgendo il loro mestiere perché nella vicenda della fusione con aumento di capitale da parte del Banco Popolare e Banco Popolare di Milano è pazzesco il numero di annunci poi totalmente smentiti dalle stesse persone, vertici delle banche in questione, che sono avvenuti nelle ultime settimane, prima di arrivare poi nello scorso fine settimana alla capitolazione di fronte alle ovvie giuste richieste della vigilanza comune europea, che invece sono state dipinte dai giornali italiani come le richieste di un ubriaco che improvvisamente ce l'aveva con l'Italia e con quelle due banche. Perché sabato scorso avevamo sui giornali la notizia: ecco le due burocrati europee che si oppongono alla fusione del Banco Popolare e del Banco Popolare di Milano, quando è evidente invece che quell'aumento di capitale è sacrosanto, che tutto questo è in vigenza di regole che i media, i regolatori italiani fanno finta di non conoscere, cioè la proporzione, gli asset di questa fusione sono tali da generare una banca, la terza italiana, tale per la quale nelle regole vigenti non deve avere il minimo di ratio patrimoniale per superare gli esami europei, devi averli più elevati perché devi paragonarli a quelli appunto che sono banche sistemiche, come Intesa. Allora, ancora oggi alla fusione di Banco Popolare di Milano e Banco Popolare, lo ripeto sempre, siccome il totale degli netto dei crediti deteriorati netto delle due banche intorno ai 18 miliardi netto, perché se facciamo il lordo ovviamente stiamo quasi 28, allora questi 18 miliardi nella somma degli attuali coverage, delle coperture delle due banche, una volta che si arrivasse a fusione sarebbero la somma del 39% della Popolare di Milano e del 34% del Banco Popolare, cioè sarebbero il 35% rispetto al 55% d'Intesa. Tutta la storia che i giornali italiani non hanno raccontato, rilevando che i vertici delle due banche non parlavano mai di queste cose, dice tutto della intollerabile, secondo me, connivenza che resta nei gruppi editoriali italiani. Si è detto, tutti i grandi giornali finanziari avevano uno stesso commento, che le regole europee e la vigilanza europea aveva una, tra virgolette, ossessione sulla capitalizzazione delle banche italiane. Quando io vedo che ci sono queste corrispondenze di termini, capisco al volo che stiamo parlando di una manovra collusiva. Giudizio brutale, me ne rendo conto, io lavoro per questo gruppo editoriale, ma penso che questi siano errori gravi da evitare. Aggiungo altre tre cose, ma le cito solo tac tac tac, perché poi dobbiamo andare in sospensione e ci torneremo sopra nel corso della trasmissione, perché poi ne parleremo anche quando c'è Enrico Zanetti. Allora, guardate che a prendere dopo 4 mesi solo perché c'è un'impugnativa di un azionista di una delle 4 banche risolte di fronte al TAR, dalla memoria di Banca d'Italia, che i criteri per valutare l'abbattimento dei crediti deteriorati furono concordati con la BCE, no, perché alla fine la Banca d'Italia ha scelto comunque di rendere più alto l'abbattimento, che ci sembrava già così elevatissimo, al 17,36% del nominale, tanto che la vigilanza, la Commissione Europea considera che comunque per quella sola banca ci sono 200 milioni di aiuti di Stato. A prenderlo dopo 4 mesi in questa maniera incidentale è un grande problema, perché noi dovremmo chiedere la totale pubblicità. È tutto coperto delle da norme. Omissis, ecco, questo è il paese degli omissis ed è una follia. Non è possibile, oltretutto quando si applicano procedure di risoluzione con una nuova normativa, e quello è il primo caso, Ma a maggior ragione l'intera comunità del business italiano e dell'informazione italiana dovrebbe pretendere la pubblicità totale dei rapporti tra il regolatore italiano e la Commissione europea, non a prenderne incidentalmente pezzetti dopo 4 mesi grazie a un bravo giornalista che si va poi a quel punto a sfogliare gli atti giudiziari. Terza cosa, sui rimborsi per le 4 banche risolte, quando finisce il casino fatto dal governo? Che prima parlò di aiuti umanitari, ve lo ricordate? Aiuti umanitari. Campi profughi ancora un po'. Esatto, prima parlò di aiuti umanitari, dopodiché parlò, contrario, no, mettiamo il tetto bassissimo, ma lo mettiamo con dei criteri stabiliti da noi, la truffa, ma senza valutazione. A quel punto l'Europa dice, fateci capire, a questo punto senza valutazione significa che darete aiuti di Stato, no, per ma legge, stanno facendo l'ennesimo casino, ma come è possibile che ci siano, perdonate, non stiamo parlando di cose tecnicamente complicate, no. È una vicenda che si sta autoavvolgendo sulla necessità elettorale dall'inizio di rispondere alle polemiche delle 4 banche risolte, mettendo insieme una serie di cazzate tecnicamente, ma è la gara a voler fare cattiva figura? Cioè io non lo so, mi fermo qua per un momento perché siamo andati già oltre, ma poi devono parlare anche gli altri su queste vicende, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta, ragazzi. Noi qua, i compari dei Conti della Belva, sono eccitatissimi questo sabato predomenicale, perché la grande notizia oggi, un po' nascosta sulla stampa di Torino, pagina 13, è la notizia pasquale, è la resurrezione della politica, è la promessa radiosa del ritorno dell'Italia, perché nasce la corrente di Maria Elena Boschi, gli imboscati sarebbero, no, praticamente. Subito il gufissimo Mario. Io ho fatto, ragazzi, una battuta. La tua era off the record, diciamo. Off the record. No, ragazzi, siamo in fascia protetta. Non è, guarda, è, nelle cene segrete dei ristoranti romani ci informa la stampa con Lotti nel mirino. Quindi capite, c'è una finalità anche di ordine pubblico. Scontro generale. Tra titani. Scontro tra titani. Silvia Fregolent, deputata del PD, Francesco Bonifazi, il tesoriere del PD. Ragazzi, e questo è il sogno dell'avvenire. E il dopo Renzi, ragazzi, guardate, è inutile che voi fate tanti gli ignori. Tutti noti lanciatori danza. Ogni volta che esce qualche notizia economica, boom! Il mondo si divide in due: i lanciatori d'ansia e quelli di ansia che siamo noi. E quelli di ansia che siamo, esatto, noi. Occupati. I lanciatori, no, di ansia. Un po' di autoironia, cari ascoltatori. Allora, stiamo andando al tema da porsi. Ma la nuova ondata di attentati di ISIS che effetti ha presumibili sul conto economico e sul conto patrimoniale? Insomma, come vanno le cose nell'economia? Tradizionalmente le guerre fanno fare più spese e quindi il PIL non va a malaccio. So che è cinica, però è così la faccenda. E anche dopo l'11 settembre negli Stati Uniti il PIL andò meglio. Ecco, ma questa faccenda vale anche oggi con l'ondata di attentati tra quelli di novembre e quelli di oggi, Francia e Bruxelles? Ecco, mentre riflettiamo su questa domanda, prendiamo innanzitutto due telefonate dei nostri ascoltatori. Francesco da Roma. Francesco, prego. Buongiorno Giannino. Eccoci, grazie. Buongiorno. A lei e ai suoi collaboratori. No, compari. Volevo, no, no, compari, che collaboratori? Compari, mi sono tutti superiori. Maggiordomi. Non è vero, mi sono tutti intellettualmente superiori per titoli e mente. Allora, io volevo sollecitare l'attenzione su ciò. Anche nel campo dell'istruzione e delle università, i privati tendono a rifare il verso all'organizzazione statale. Con cosa? Con la cosiddetta menata dei requisiti minimi, ovvero anche le università private dovranno avere nel loro organigramma un certo numero di ricercatori, di professori associati, e ciò a detrimento del numero di, invece, di professori a contratto, che sovente sono professionisti che insegnano materie applicative chiamati dalle università stesse come buon collegamento tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione. Quindi tesi di Francesco: se l'accreditamento quindi delle grandi università private significa dover assumere tali e quali gli stessi difetti delle piante organiche di quelle pubbliche, beh, insomma, si sminuisce l'eccellenza, giusto? Niente Giannino, oltre è come se io imponessi, per fare un diciamo un paragone generale, come se io alla Ryanair imponessi di avere lo stesso organigramma dell'Alitalia. Immagini che cosa può succedere dopo qualche mese. Non che la stessa struttura di costi. Andrea da Como, Andrea come la pensa? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, una cosa, anzi due, velocissime. La sentiamo prima, un po' male, dica. Come? La sentiamo un po' male, dica. Ah, la prima, ecco, volevo dirvi, se possibile, di togliere quella musichetta riguardante l'inno nazionale, perché è molto fastidiosa. E perché? Scusi, dici la verità. Perché, allora, è ridicola. A parte che non fa ridere, e allora non rida. Sai com'è? Toto, castiga tridendo amores. Però dica. No, non solo non fa ridere, ma mi sembra abbastanza brutto mettere l'inno nazionale in quella sede lì. Se in America una qualsiasi trasmissione mettesse questa specie di pasta di inno nazionale, probabilmente la farebbero chiudere in due, tre. Ma cosa sta dicendo? Guardi, non credo proprio. Lei ha delle rilevanti, diciamo, pulsioni illiberali, perché vorrei farle notare che negli Stati Uniti la Corte Suprema ha ammesso il fatto di bruciare la bandiera in luogo pubblico. Esatto, addirittura. Quindi forse conviene documentarsi meglio su cosa sono gli Stati Uniti e cosa comunque, è questo paese. Noi ironicamente disponibile a scambiare. Io sono disponibile a scambiare le tasse americane col fatto che rimettiamo l'inno senza. Sì, anch'io. Ma detto tutto questo, e l'ironia amara proprio sul fatto che alcune cose costitutive del nostro paese rappresentano dei tabù. Quello è macro evidente. Cambiano i regimi di colore politico dei governi, ma in realtà questa cosa delle altissime spese e tasse resta un tabù di fronte al quale nessuno poi prende provvedimenti. Quindi, ohimè, il nostro inno è amaramente ironico per questo e resterà. Non è un disconoscimento dello spirito patriottico, è un attacco all'ipocrisia della politica nazionale di ambo i colori. Questo perché io sono l'autore, mi piglio la responsabilità, perché le parolette le ho scritte io. Quindi, detto tutto questo, grazie comunque, perché è meglio confrontarsi su, e questo ci consente di spiegare il fatto che non ce l'abbiamo con l'Italia, ce l'abbiamo con la politica di destra e di sinistra. Allora, ecco noi Andrea Goldstein di Nomisma, gli abbiamo già levato troppi minuti mentre abbiamo parlato d'altro. La questione, buongiorno e grazie di dedicarci questo tempo il sabato di Pasqua. Le stime che voi fate rispetto alle serie storiche che abbiamo anche recenti degli effetti di ondate di attentati di terrorismo sul PIL, che cosa dicono rispetto alla particolarità di cadere in un momento in cui ci sono macro fattori che già frenano la crescita a livello mondiale, dalla Cina alle commodities, il petrolio, la diversificazione delle politiche monetarie, gli deflussi di capitale dai BRICS che sono in crisi e così via. E quindi questa volta è dal punto di vista dell'economia un bene, un male? Che cosa ci può dire Andrea? Ma è male perché ovviamente è male, diciamo che gli aspetti propulsivi a cui faceva riferimento prima negli altri paesi, come in particolare negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, è difficile che possano esplicitarsi in Italia e in Europa in generale, data il livello molto modesto delle spese militari, che magari risponde a dei motivi più alti, ma in ogni caso fa sì che è difficile immaginare che l'Europa spenda molto di più su quel fronte. In compenso penso che quello che si è visto in Francia dopo gli attentati sia di gennaio che di novembre è che il consumo un po' ha sofferto inizialmente, soprattutto ha sofferto il turismo, ma poi c'è stata una cosa molto interessante negli ultimi tre mesi in Francia, che è stato un riposizionamento dei consumi molto di più sul commercio elettronico, molto di più sui commerci cosiddetti di prossimità, quindi la gente ha paura di andare nei centri commerciali, i turisti non arrivano e quindi le grandi catene di grandi magazzini soffrono, ma in compenso i francesi stessi sono relativamente ottimisti e continuano a spendere, e questo fa sì che l'economia francese in questo primo trimestre sia cresciuta. C'era anche chi temeva rispetto ad attentati che in Francia venivano nel centro storico e così via, effetti sull'immobiliare ci sono stati? L'immobiliare è interessante perché è un mercato ovviamente molto segmentato, sull'immobiliare normale non c'è stato un grande effetto, sull'immobiliare di grande qualità, cosa che penso né lei né io possiamo neanche solamente ambire, 5 milioni, 10 milioni, in compenso c'è stata una battuta d'arresto abbastanza notevole, non so se lo stesso sia successo anche in altre paesi in Europa che non sono stati direttamente colpiti, ma sicuramente a Parigi. Poi ovviamente c'è anche il combinato disposto dei fattori qui accennava lei, ovvio che in questo momento le grandi fortune dell'America Latina, le grandi fortune arabe sono in questo momento un po' caute prima di spendere, anche loro poverini, anche ricchi piangono, quindi in questo momento comprarsi un piede a terra da 300 metri quadri sull'Avenue Foch per 10 milioni risulta difficile anche a loro, ma sicuramente c'è un effetto terrorismo. Ora, quello che veramente invece potrebbe cambiare un po' le carte in gioco sarebbe se ci fosse un ritorno indietro rispetto a Schengen, al di là dei valori che sono esemplificati da Schengen. Perché cioè, quello significa colpire, insomma, non ci dimentichiamo che poi il più del commercio dell'Unione Europea è ancora intra-UE più che extra-UE, e quello significa aumentare le esternalità negative che hanno un impatto diretto a quel punto sui flussi, i valori, esatto, i volumi. Sì, soprattutto perché comunque viviamo ormai in catene di produzione integrate a livello globale, ma ancora più regionale. Quindi se costa di più trasportare dei componenti, dei pezzi di una vettura piuttosto che di un macchinario tra la Germania e il Belgio, tra l'Italia e la Francia, tra la Spagna e non so dove, questo ovviamente rende meno fluide queste catene di valore, quindi le rende meno efficienti e tutto il resto. Quindi già ci sono dei primi segnali, intanto in ogni caso, che il commercio internazionale è abbastanza in crisi in questo momento per motivi vari, uno dei quali ovviamente sono i rischi geopolitici. Se a questo si aggiungesse una reintroduzione di meccanismi di controllo alle frontiere, sia per le persone nello spirito di Schengen, sia sui commercio di beni e di servizi, questo ovviamente aumenterebbe la viscosità del sistema. Allora, un minuto di informazioni sul traffico e torniamo con Andrea Gossen e Carlo Alberto che stanno intervenendo. Gli sono andato sulla voce, però abbiamo le informazioni che in questo fine settimana sono ancora più importanti che mai. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. È la nostra sigletta, un po' per così dire, di quelle acri, ecco. Allora, è un po' sì, siamo una trasmissione ironica per parlare di economia in termini seri, ma anche sorridendo di noi stessi, in questo caso di noi stessi d'Italia, che con le tasse che non riesce a capire queste tasse si cresce meno. Allora, mi pare di capire però, Andrea, che con noi Andrea Gozzi di Nomisma stiamo parlando degli effetti che possiamo stimare sull'Europa di oggi, nei guai del contesto mondiale attuale, di quale può essere l'effetto economico dell'ondata di attentati di IS. Carlo Alberto, mi sembra che Andrea Goldstein, insomma, ci faccia capire che il quadro non consente grandi ottimismi, cioè di grandi spese aggiuntive, addizionali che traino il PIL, non se ne vedono. Io dissento, se non ti dispiace, perché la cosiddetta minaccia militare del terrorismo islamico è, diciamo, termini quantitativi, ridicola. Faremo meglio mettere sensori antisonno il pullman per studenti, per vacci piano con i paradossi, con tutti questi morti, dai. Lo dico così perché onestamente è un po' un effetto Trump, cioè i media stanno ingigantendo una cosa che dal punto di vista militare oggettivamente è molto più limitata, e invece dissento anche dal punto di vista economico, perché secondo me invece proprio questa minaccia sulla sicurezza che avviene sul territorio dell'Europa spingerà le spese infrastrutturali sul territorio in termini di sicurezza, tracciabilità, controllo a aumentare. Quindi è una spesa, chiamiamola di sicurezza, che più ha più leva, effetto moltiplicativo più alto della classica spesa per armi, diciamo da carri armati e da aeroplani. Perché spingerà a infrastrutturare il territorio, per esempio a mappare le catene logistiche che oggi viaggiano senza controlli, ma invece dovranno viaggiare con controlli digitali. Quindi io la vedo in maniera diversa. Penso che questo costringerà l'Europa a darsi un'infrastruttura di controllo e di tracciabilità più elevata, con problemi di privacy sicuramente, non tutto sarà facile, ma dal mio punto di vista è una spinta fortissima a un'integrazione dei processi di logistica sul territorio, a modelli metropolitani di controllo più avanzati, che non è in sé negativa. Certo che finché i decisori sono così frammentati, non si riesce nemmeno a mettere insieme il database di tre polizie della stessa città, siamo lontanissimi dagli effetti. Ti ricordo che sono sei le forze di sicurezza che operano a Bruxelles. Sono scettico sulla capacità organizzativa, sono un pochino più possibilista sugli spazi industriali che si aprono in questo momento. Da questa tua osservazione che ne pensa Andrea Goldstein. Voglio assicurare tutti i nostri ascoltatori, ne sono certo, caro Alberto Carnevale Maffè non risulta essere socio di Carrai in società di cyber security, quindi non sta parlando a titolo personale, come invece altri potrebbero immaginare, visto che continuiamo a leggere articoli sul fatto che una delle nomine che vuole fare l'Augusto nostro, che Dio ce lo preservi, elevatissimo, illuminatissimo, guida del paese, presidente del Consiglio. Sto scherzando. Allora, Goldstein, che dici delle obiezioni invece di caro Alberto? Dice che le spese di sicurezza in realtà una mano al PIL la danno. Potrebbero darle da una mano al PIL, ovviamente potrebbe esserci uno scenario virtuoso in cui, così come il Pentagono è stato in qualche maniera la base del miracolo di Silicon Valley, insieme a tanti altri fattori ovviamente, ma in ogni caso è stato uno importante, questo possa creare la stessa dinamica in certe zone dell'Europa che effettivamente hanno magari le capacità tecnologiche. Sono un po' più scettico sulla capacità di implementarlo poi, e nel senso vero. Che da un lato, come diceva Matteo, non c'è un coordinamento che quindi sia un coordinamento operativo e ancora meno un coordinamento politico della politica di sicurezza. Ora, come abbiamo visto nel caso di Galileo, quando si tratta di fare questi grandi investimenti infrastrutturali legati alle nuove tecnologie digitali, l'Europa non è che sia stata particolarmente brillante, quindi il costo di queste operazioni rispetto al ritorno che poi hanno avuto è stato assai modesto e i ritardi sono stati tremendi. La stessa storia è successa con l'Airbus militare, quindi quando si tratta di progetti paneuropei non è che abbiamo mai dato una grande prova di noi stessi quanto Europa, e questo ovviamente è triste. In più, in questo momento, come vediamo, c'è il paese che teoricamente più potrebbe offrire delle soluzioni di questo tipo, che insieme alla Francia e il Regno Unito, che in questo momento mi sembra che sia preoccupata quando si parla di Europa da ben altre questioni. Eh sì, anche perché quindi, insomma, io vedo che per il momento i sondaggi continuano a dire che è testa a testa, ma proprio stiamo parlando di frazioni di punto, ma è una gara apertissima quella per il referendum. Ma è difficile immaginare che anche se dovesse vincere Remain, certo. Poi che diventa un fatto. Adesso ci mettiamo a fare la politica di sicurezza europea. Domanda, io sono un po' dell'idea, ragazzi, posso sbagliarmi, che politicamente se salta davvero Schengen, cioè in maniera strutturale, poi ci si può inventare una scusa politica per dire che è compatibile con le regole attuali sospenderlo per 2 anni, ok, è saltato, però io penso che l'effetto economico vero, cioè una catena di eventi che possano davvero a quel punto travolgere anche l'euro, l'edificio delle regole comuni di bilancio e così via, parta proprio da Schengen, le frontiere e la esplosione esponenziale dei costi della logistica a quel punto. È uno scenario, come sempre, un po' estremo il mio, però... Goldstein che dice su questo? Non è Schengen davvero la chiave che se la buttiamo alle spalle finisce? Sono d'accordo con te, c'è sempre la speranza che l'Europa nei momenti di maggiore difficoltà, quando è sull'orlo del baratro, riesca a trovare un sussulto di orgoglio e i nostri politici, ecco, diciamo che di Adenauer e di Monnet in giro non è che se ne vedono pochi. Tantissimi. E quindi questo non è forse un conto. Poi è chiaro che l'Europa, finché c'aveva un nemico comune, l'Europa e l'Occidente, era anche più semplice trovare delle soluzioni, dei compromessi. Adesso il nemico, come diceva Matteo, effettivamente dal punto di vista della minaccia militare non è lo stesso che il dottor Stranamore, e in più anche dal punto di vista del controllo del territorio, insomma, non prendiamoci in giro, insomma, comunque l'Europa non è che sia in mano, quartieri dell'Europa non è che siano in mano all'ISIS. Quindi è difficile trovare da quel contesto particolare una chiave di volta. Però sono d'accordo con te che se cade Schengen è difficile, soprattutto è anche difficile giustificare tra le altre politiche esattamente. Non ci fidiamo l'uno dell'altro, perché dovremmo già non ci fidiamo tanto. Burocrazia, istituzioni e così via, è perfetta. Io credo questo, ecco, a differenza di chi pensa che sia l'euro con le sue contraddizioni a far cadere tutto. Però detto tutto questo, intanto grazie Andrea Goldstein. Noi adesso, dopo il giornale radio, torniamo qui allegri con le vostre telefonate e poi con Enrico Zanetti a porci un po' di problemi sulla finanza pubblica italiana. Nel frattempo però faranno anche un... Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta ai compagni dei Conti da Belva, che vi salutano innanzitutto Oscar e poi Mario, Renato. E ci sei anche Carlo Alberto. Carlo, ma tu dici qualcosa di queste vicende bancarie, non lasciatemi soli nello sparare contro il sistema. Ma guarda, ho un secondo lutto, dopo quello meccanico, quello finanziario, perché francamente dopo aver passato anni ad aggrapparci a Banca d'Italia come a un, come dire, un pilastro della trasparenza, del rigore, io non so, ma in questi mesi devo dire francamente delusioni una dietro l'altra. Non mi far commentare. Omissis. Come gli atti Omissis, da cui stiamo apprendendo 4 mesi fa i criteri seguiti per l'abbattimento di valore degli NPL. Ho capito come mai c'è davanti alla scaletta dove c'è scritto Carlo Alberto c'è una serie di righe nere. No, ma ragazzi, ma non vi fa morire dalle risate? Sto dicendo amare, cari ascoltatori. Cercate di capire, noi usiamo l'ironia apposta perché siamo su una borderline, se ne parliamo troppo seriamente veniamo catapultate sul pianeta Marte, capita anche questo, però non, cari amici, non rimanete veramente senza parole di fronte al fatto che la valutazione adesso verrà fatta da un esperto, un esperto che farà una seduta, Mario, spiritica per valutare ste cavolo di sofferenze di queste quattro cavolo di banche risolte. Siccome il criterio, ci è stato detto 4 mesi fa che l'abbattimento era i criteri di mercato e noi eravamo andati a vedere in effetti i valori a cui erano avvenute le cessioni precedenti sul mercato italiano ed erano valori molto bassi, mentre la polemica fu quell'abbattimento già stato imposto dall'Europa. Adesso scopriamo dopo 4 mesi da verbali giudiziari che nel confronto Banca Italia è tenuta alta, perché in realtà l'abbattimento non doveva essere del 17 ma del 13%, che poi era quello di cui parlavamo noi e in adesso. E adesso ci viene detto, però la valutazione verrà fatta da un esperto. Il mago Telma. Sono gli stessi esperti che hanno valutato per tanti anni i valori delle banche popolari non quotate, sai. Gli stessi che hanno firmato le perizie, i grandi accademici italiani compromessi collo da banchieri corrotti. Ragazzi, fate i bravi, fate parlare a me, che a me non possono dire niente, che voi vi massacrano poi. No, io ci ridò sopra. Sono tornato vergine, io ho fatto un intervento. No, io però, con tutto il rispetto e la comprensione per coloro che hanno perso i soldi, questa storia che vogliono rimborsare tutti la considero una iattura. Ma vedi, prima che rimborsare tutti, il problema è le contraddizioni emerse dallo stesso governo sui criteri da seguire per i rimborsi. Quindi, sai, i criteri sono stati, si sono aperti in un ventaglio tale. Poi, questo, infatti, tra pochi minuti ci colleghiamo con Enrico Zanetti, che su questo, secondo me, ha ragione, insiste dicendo: ma quando la finiamo di dire cose diverse ogni 2 settimane, cosa che oltretutto condanna poi il rimborso vero a prospettive anche temporali del tutto ridicole? Sentiamo qualche ascoltatore. Paolo da Milano, prego Paolo. Buongiorno. Io mi meraviglio della fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con un nuovo assetto di management, Saviotti, Frattapasini e Faraoni, direttore generale, che sono sotto processo per usura, rimessi su il terzo polo, bancario. 3 amministratori sotto processo, ma mi meraviglio del ministro Zanetti che ha combattuto all'assemblea di Veneto Banca che c'ero, Popolare di Vicenza, senza presentare un piano, ma viene presentato fra 2 mesi. Ma che mondo è? Noi quando andiamo in banca dobbiamo presentare un piano, una prospettiva, qui non c'è niente. Allora, abbiamo solo persone che per tenere calda la poltrona, come il Frattapasini dopo 20 anni, e Saviotti che sta rivincita quanto vendette la Comit, anzi la svendette, no? Questa fusione si sono giocati la faccia per avere il posto, i 500.000 euro il Frattapasini, i 3 milioni Saviotti come presidente del comitato esecutivo e Faraoni 1 milione d'euro. Le cifre sono queste esattamente. Ma secondo voi una fusione questa è una fusione fra amici? Questa, guardi, quei criteri sugli organi di governo. Però è colpa dei burocrati europei. Carlo Alberto, che dici, Carlo Alberto? Effettivamente le prime proposte erano ancora peggiori, esatto. 19 membri del Consiglio di Amministrazione, 3 siti, un soviet. Anni per consolidare il processo organizzativo. Francamente devo dire, meno male che BCE, anzi la NUI, si è messa in mezzo su questo processo e ha forzato un po' di disciplina, perché dà il senso però di cosa dovranno essere il nostro paese, ascoltatore dice si elevano le giuste critiche a persone che in sistemi tra virgolette normali dovrebbero essere fuori dal giro, vogliamo dire così. Ecco, io condivido in pieno l'osservazione del nostro ascoltatore, perché questo pezzo, cioè quello della stima pubblica, è un pezzo fondamentale della credibilità di chi è alla testa di banche o amministratore di banche e così via. Nel nostro paese la copertura è totale. Quando il nostro ascoltatore dice questa è una roba tra amici, dei amici degli amici, siccome coglie proprio un punto di grandissima amarezza perdurante nel nostro sistema, malgrado tutto quello che succede. Sentiamo Beppe da Reggio Emilia. Beppe. Buongiorno. Buongiorno. E buona Pasqua in anticipo. Anche a lei. E io avevo chiamato per un'altra cosa, sì. Ma adesso visto mi riaggancio alle banche, sì. Ma io sono basito anche da Sole 24 Ore che di queste cose non ne parla più, no, parla di tutt'altri cazzi. No, ne parla in tutt'altro modo rispetto a noi, questo è... infatti noi siamo sul filo del rasoio da questo punto di vista. Cioè che mi metti in intervista Carlo Sangalli e mi dici che il nostro PIL aumenterà dell'1,6% quando le stime le hai dette tu quali sono? Sì. Hai capito? Capito, vabbè. Noi la scorsa settimana siamo intervenuti anche su questo. Non aggravare ulteriormente la possibilità che il calcio si stringa intorno al mio collo. Come vedete, noi continuiamo però, a parlare però il gruppo, con questa il gruppo lingua. È polifonico. Perché il, cioè, gruppo, il gruppo è polifonico. Per cui ancora non ci hanno cacciato. Però in tutte le orchestre c'è un direttore d'orchestra. Ah, questo ve lo devo ricordare. Quindi noi andiamo avanti a nostro rischio pericolo. Però da uomo della strada devo dire che l'ho già detto diverse volte negli ultimi tempi, il giornalismo in genere italiano mi sta molto deludendo, perché stiamo, vedi Giulio Anselmi, quello che ci stiamo allineando a una situazione in cui non sai dove andare a prendere le notizie. Faccio un altro esempio, l'articolo all'estero più informato con una lista così di autorevolissime fonti ufficiali italiane, magistrati, procuratori della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e così via, sul connivenze tra Camorra A, B, gestori di porti e interporti italiani e ISIS, l'ho letto su The Daily Beast, su una testata estera. Nessun giornale italiano aveva un'inchiesta fatta coi controcapperi con tutte quelle fonti ufficiali italiane. Perché? È antipatriottico. Perché, come è evidente, dietro il sistema di porti e interporti ci sono forti interessi, ecco. E allora le proprietà su questo ecco, faccio un esempio concreto che ha a che vedere col terrorismo addirittura, non solo con rispetto alle regole di trasparenza e informazione simmetrica che quando ci sono problemi nei mercati bancari vie più dovrebbero vigere ogni giorno, ma vie più devono essere la regola chiesta da tutti. La cosa terrificante di questo è che poi, siccome non tutti hanno gli strumenti a partire dalla lingua molto spesso per andare a informarsi in modo strutturato e corretto all'estero, diventa il paese delle bufale. Lo so. E quindi diventa, cioè, tu hai da una parte una stampa che magari di certe cose non ne parla e da un'altra parte alcuni che ne parlano in un modo che forse è meglio se stessero zitti. Allora andiamo al traffico e dopo il traffico è con noi il viceministro Enrico Zanetti. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta, i compagni di Conti della Belva vi salutano. Nel frattempo che in collegamento proviamo col vice ministro dell'economia Enrico Zanetti, Silvano da Macerata. Silvano, ci sei? Silvano, sei in ascolto? No, la linea è caduta anche con Silvano da Macerata. Ci sei Silvano? Okay. Sì, sono sì. Eccoci qua. Dici. Scusa, non ci potevo intervenire. No, prego. Io ho chiamato in primo luogo per il discorso del referendum, sì. No? E qualcuno lì ha detto estendiamo il referendum anche alla Tunisia. Io vorrei sapere se un danno del genere succedesse nell'Adriatico, quanti danni farebbe rispetto al turismo e quant'altro? È un mare chiuso, sia il Mediterraneo ma specialmente l'Adriatico. Quindi non vedo tutto questo sarcasmo rispetto a questo discorso. Aspetta, lo diremo anche alla Croazia. Faremo una puntata. Certo, la Croazia mi sembra che hanno già bloccato questo discorso della derivazione, perlomeno quello che ho letto. Poi rispetto alla Banca d'Italia, mi sembra che sia un istituto privato. No, non è un istituto privato. Attenzione su questo, non cadere nella trappola di chi racconta che è un istituto privato. Per statuto, per legge, è un ente pubblico e i privati che sono nel suo capitale non possono esercitare le funzioni che sono attribuite dal codice civile nelle società e private nel nostro paese. Quindi questo no. Quanto al tema, noi approfondiremo in una puntata tutti i diversi temi delle trivellazioni. Domanda: è mai capitato in Adriatico? No. Perché? Eccetera eccetera, ma ce ne occuperemo in una trasmissione. Stai pur sicuro che ovviamente il punto di vista di chi è convinto della tesi di fondo del quei sei quesiti che oramai restano uno su cui si vota il 17 aprile e su cui a quel punto il confronto oramai è diventato andare a votare o non andare a votare per non far scattare il quorum, lo faremo seriamente. Grazie di aver telefonato. Ecco, finalmente con noi Enrico Zanetti. Grazie Vice Ministro di essere con noi. Buongiorno. Allora, l'abbiamo citata più volte perché lei ci dà, tra le diverse, i diversi temi, ma grande soddisfazione anche oggi su un tema che ci sta molto a cuore, cioè quello del perché il governo continua a identificare criteri diversi per il rimborso dei risparmiatori delle quattro banche risolte quando non fa altro che creare problemi aggiuntivi. Ma a che cosa si deve questa sarabanda? Lei anche oggi sul Corriere della Sera interviene proprio su questo. Guardi, il governo, come ogni altro consesso umano, è formato da una molteplicità di individui, alcuni dei quali mi sembra evidente che hanno le idee chiare e alcuni altri mi sembra altrettanto evidente che le hanno un po' meno chiare. Una rassicurazione innanzitutto, i rimborsi arriveranno e saranno anche più generosi di quello che era stato inizialmente prospettato. Il punto però è che questo accada in termini che siano giusti e corretti, sia per chi riceve i rimborsi, sia per tanti altri che in passato, avendo avuto problemi con titoli, obbligazioni e azioni, invece non li hanno ricevuti. E il modo giusto di procedere è quello di verificare, caso per caso, chi non è stato eventualmente informato in modo adeguato di profili di rischio e a quel punto rimborsarlo, proprio perché in un settore vigilato come è il credito, questa è un'omissione che per l'interesse stesso del sistema deve essere sanata. E non scattano in questo caso aiuti di stato di sorta, proprio perché non si parla di assurdi aiuti umanitari, come ad esempio alcuni avevano fatto all'inizio, ma si parla di risarcimenti a fronte dell'accertamento puntuale e veloce, perché a questo servono gli arbitrati, più veloce della giustizia ordinaria, del presupposto che li legittima. Ora, se invece alcuni parlano di aiuti umanitari, altri poi dicono quasi quasi restituiamo tutto a tutti, riproviamo a chiedere all'Europa, è evidente che pur cercando di lavorare per il meglio per il paese si allungano i tempi e si fa un po' di confusione. Senta, un'altra domanda, un altro tema che abbiamo toccato oggi, naturalmente per lei è più delicato perché è componente del governo, però noi rimaniamo un po' senza parola di fronte al fatto che a distanza di mesi dalla vicenda delle quattro banche risolte per decreto continuiamo ad apprendere tardi, male e praticamente incidentalmente solo da atti giudiziari qual è davvero il criterio seguito e che si applicherà se dovessero esserci altre banche risolte, auguriamoci di no, però si applicherà quando sono risolte le quattro banche a novembre, perché solo dalle impugnative di fronte al TAR di uno degli azionisti di una delle quattro banche risolte sul tasso di abbattimento del valore dei crediti deteriorati nella memoria depositata al TAR depositata dalla Banca Italia, noi apprendiamo solo adesso, solo in questo modo, che il confronto con la Commissione Europea di Banca Italia ci fu, ma non fu davvero poi totale come Banca Italia all'inizio disse e ci hanno imposto il diktat. Tanto è vero che secondo la Commissione Banca Italia applicò un abbattimento non così duro come doveva essere. Allora la domanda che le faccio è: non è giusto immaginare che le procedure di risoluzione debbano essere totalmente pubbliche, a maggior ragione quando cambia sistema di regole e che i risparmiatori su questo sappiano come funziona, piuttosto che andare a spizzichi bocconi e per atti giudiziari a mesi di distanza? Non dovrebbe essere totalmente pubblico il rapporto delle autorità di regolazione, in questo caso europee e italiane, su questi temi bancari? Guardi, è fuori di dubbio che, come sempre accade quando si attuano per la prima volta procedure nuove, possano esserci alcuni meccanismi da oliare anche dal punto di vista proprio dei processi informativi. Credo però che al netto appunto di qualche ingranaggio meno oliato, proprio in ragione del fatto che siamo alla prima volta, l'attività che è stata svolta è un'attività che nel complesso sarà assolutamente chiara prevede delle fasi ovviamente anche provvisorie, le stesse valutazioni inizialmente sono valutazioni provvisorie che poi si consolidano con valutazioni definitive, parlo ad esempio dei crediti deteriorati. La dialettica con la Commissione europea ovviamente è stata una dialettica non facilissima, anche proprio perché parliamo di cose nuove, di procedure nuove. Quello che conta è che poi appunto la procedura nel suo complesso di liquidazione, sia parte banche buone sia parte banche cattive, bad bank, sia una procedura che porti con la trasparenza massima alla quantificazione di quelle che saranno le entrate complessive, vendita banche, incasso crediti, perché è chiaro che quello che verrà incassato nel complesso dovrà essere usato tutto per la restituzione al sistema bancario dei 3 miliardi e mezzo che sono stati messi, ma è altrettanto chiaro che le eventuali eccedenze ulteriori rispetto a questi 3 miliardi e mezzo, che lo dico con chiarezza, sono solo eventuali, è inutile adesso farci chissà quali sogni, ma se ci fossero quelle naturalmente sono di obbligazioni di azioni. Caro Alberto, le procedure devono essere chiare. Caro Alberto, proprio sulle quattro bad bank avevo una domanda. Sì, diciamo intanto è giusto rimarcare questo principio fondamentale nella direttiva europea, cioè che non ci può essere un trattamento peggiorativo nei confronti di obbligazioni di azioni rispetto alla normale procedura di liquidazione. È una clausola specifica, complessa da applicare perché richiede perizie, ma fa bene Enrico Zanetti a sollecitarla. Però c'è una cosa che non riesco a perdonare, l'omissis sulla data del 30 di aprile, Enrico. Sì. Questa è una cosa abbastanza importante perché non si può non dire ai risparmiatori che la loro banca ha una data di scadenza. Sì. Io trovo che questo veramente sia una grave mancanza di rispetto nei confronti dei risparmiatori e nei confronti anche semplicemente delle aziende che magari hanno attività di credito nei confronti di queste banche. Se c'era questa data, che secondo me è vessatoria, sia chiaro, l'Unione Europea ha fatto un errore gravissimo a darci solo 5 mesi per questa operazione, ma andava resa trasparente, al di là dei dettagli tecnici degli NPL che sono oggettivamente un po' più tecnici. Questa data è lampante. Mi chiedo perché il governo ha voluto non renderla trasparente e poi farla emergere da un verbale di una discussione in tribunale. Zanetti. Non è che in questo caso c'è una mancanza di voglia di comunicazione, era una data che si poteva presumere all'inizio, l'abbiamo accettata, che potesse andare bene. Ovvio che nell'istante in cui serve un po' di più tempo, siccome le operazioni devono essere fatte nell'interesse proprio di tutti gli stakeholder della banca e quindi di tutti, dipendenti, azionisti, correntisti, e beh, il tempo in più che emerge come necessario dovrà naturalmente essere concesso, ma su questo la dialettica con l'Europa sta procedendo con estrema serenità perché è nell'interesse di tutti, con realismo, concedere il tempo che serve. Però cioè, io, la cosa che mi lascia abbastanza perplesso è questa quantità industriale di omissis, no? di fonte governativa, la stessa Banca d'Italia, questo balletto su chi ha valutato cosa per quanto riguarda la valorizzazione delle sofferenze da girare alle bad bank. Poi è vero che il 30 aprile probabilmente non è una data ultimativa, però è scoprire le cose solamente per la tigna di un giornalista che fa molto bene il proprio lavoro e trova questo documento a seguito di un'azione davanti al TAR di una delle parti coinvolte non è il massimo della vita, anche perché la versione italiana della BRRD nasce con i poteri della Banca d'Italia di segretare i dettagli delle procedure di risoluzione, per cui poi alla fine la realtà ci insegue. Lei cosa ne pensa? Ma penso che come sempre da un lato l'esigenza di trasparenza e dall'altro però anche l'esigenza della tutela proprio degli asset bancari e dei valori delle banche debbano trovare necessariamente un punto di compromesso e di contemperazione. Avete visto ad esempio cosa è successo in questi giorni con quelle dichiarazioni del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma, un po' troppo barricadere e un po' troppo leggere, frutto probabilmente anche dell'evidente inesperienza. I riflessi poi si determinano sui valori e sulla ricchezza delle persone interessate. È chiaro che procedure come queste necessitano anche di una certa tutela informativa da parte naturalmente delle autorità, non certo da parte della politica, ma delle autorità tecniche di vigilanza. Chiaro che quando a volte nascono problematiche rilevanti, come sono nate recentemente, anche autorità tecniche di vigilanza come la Banca d'Italia finiscono per essere messe in discussione e secondo me la risposta sempre più corretta in questi casi è né fare accuse a scatola chiusa a istituzioni importantissime nel nostro paese, ma nemmeno delle difese di ufficio totalitarie indispettiscono soltanto i cittadini. Quindi, infatti, ben vengano i segreti d'ufficio, ma altrettanto è importante che quando ci sono certi momenti di difficoltà alla grande, la politica in modo serio, possibilmente non populista, perché questo è il grande rischio, vada per conto dei cittadini a verificare se qualcuno all'interno delle istituzioni, posto che all'interno ci sono sempre uomini che possono sbagliare, se qualcuno ha commesso degli errori. Ma togliere i segreti bancari, i segreti d'ufficio per procedure così delicate è in assoluto, a mio avviso, non corretto. No, però il nostro mestiere è quello di dover tutelare il diritto all'informazione, quindi è uno scambio, ovviamente, di una dialettica ovvia con cose di questo genere qua. Una domanda di finanza pubblica ci vuole, perché lei mi ha entusiasmato questa settimana quando ha detto in due occasioni: caro Presidente del Consiglio, lo dico apertamente, non per polemica, però in fondo, per come stanno andando le cose di crescita, di finanza pubblica, eccetera, eccetera, per le richieste che il governo sta dichiarando di voler inoltrare in sede europea per il deficit anche 2017, insomma stiamo parlando di 2-3-2-4% deficit anche l'anno prossimo, ti faccio alcune proposte del tipo: insomma, forse in questo quadro il bonus ai diciottenni volgiamolo in altre cose. E mi è sembrato un esempio concreto di chi all'interno del governo dice: beh, ragioniamo però su alcune cose invece che procedere solo per segnali elettorali, populisti, eccetera eccetera. Allora, la domanda che faccio al Vice Ministro, cioè, tenendo conto che non può che rispondermi coerente agli impegni che ha, però oggi Larsfeld su Repubblica dice: guardate cari italiani, voi continuate a fare deficit, continuate a chiedere deficit in più, però il vostro debito diventa una mina per l'euro a un certo punto, perché non scenderà quest'anno. Allora, non è una polemica nei confronti del governo, lo sappiamo, le ipotesi nelle quali in legge di stabilità si ipotizzava che nel 2016 scendesse il debito pubblico erano appese a una stima della crescita nominale, cioè dell'inflazione, che non ci sarà, perché a quel punto il più 1% di inflazione che reggeva con più deficit rispetto alle stime di impegni europei, la difesa del debito pubblico non c'è, quindi il debito pubblico, ohimè, non diminuisce, e questo resta il quadro negli anni a venire. In più, noi continuiamo a dire: abbiamo bisogno di più margini di flessibilità, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Posso chiedere, in questo quadro, rispetto a quello di 5, 6 mesi fa, 4 mesi fa, ha davvero senso continuare in questa posizione italiana che regala armi ad altri in Europa in un momento così delicato? Ha senso continuare con determinazione a evitare misure di carattere recessivo e proseguire in modo credibile, misurato e realistico a togliere un pezzo dopo l'altro un po' di pressione fiscale al nostro paese. Per fare questo, anche insistere sulla via della flessibilità, che però non deve essere chiesta in misura crescente. È chiaro che l'abbiamo già chiesta in misura massima, negli anni prossimi la chiederemo in misura più attenuata, ma non chiederla in assoluto sarebbe sbagliato, a mio avviso. Però dobbiamo anche con grande chiarezza concentrare questi utilizzi sulle cose che servono. Finché si parla di ridurre la pressione fiscale su chi lavora e produce, finché si parla di investimenti infrastrutturali per far muovere nel nostro paese persone, merci e dati, noi, parlo come scelta civica, come componente di governo di scelta civica, noi ci saremo sempre. Quando invece facciamo deficit con misure come bonus diciottenni, per carità, accettiamo queste incredibili priorità di alcuni nostri alleati, ma francamente ne faremo volentieri a meno. Ecco, mi sembra saggezza, dire la verità, questo è il mio modestissimo punto di vista. Io credo invece che sia un errore, ma questa è una mia opinione, continuare a dire da parte di autorevolissimi esponenti del governo che c'è stata la spending review di 25 miliardi, perché dopo, dovendosi poi con i dati, le fonti ufficiali del Ministero alla mano, dire sì, dove si è riqualificato la spesa, si è usato per altra spesa, la famosa spending review lorda creativa di Renzi, quello che conta è il saldo netto non li ha visti questi 25 miliardi. Detto tutto questo, ripeto, anche secondo me conta molto in questo quadro dell'allenamento mondiale che tipo di misure tu assumi e per le quali chiedi la flessibilità, perché come è evidente non hanno tutte lo stesso impatto, lo stesso significato. Però su questo continueremo a fare il nostro monitoraggio. Intanto grazie a Enrico Zanetti, noi torniamo tra un minuto e andremo in Cina. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta, i compari dei Conti da Belva che vi salutano. Oggi non sono state viste avanguardie vegane qui a Via Monterosa. Abbiamo salame di cioccolato, il coniglio di cioccolato. Scusate, penso, poi, ragazzi, se lo sapevo lo portavo il salame. Bancarie, possiamo sempre uscire con un bel cetriolo anche noi. Bravo. Se lo sapevo lo portavo il salame, vista la zona da cui io provengo. Però sai, non mi vedo bene Saviotti e Castagna che vengono qua sotto a cercarci, però questo a dire la verità. Ma magari vengono con loro Audi 9, 10, 12, 14 i loro autisti, però. Allora, abbiamo con noi collegato, sentiamo, partiamo da questa cinese che canta, mi fa venire i brividi, ragazzi. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. There's more. Vabbè, allora, siamo collegati con la nostra cinesa preferita di importazione lì, cioè di esportazione italiana lì, Rita Faticuso. Rita, come stai? Bene, bene, voi come state? Ma noi siamo qui in diretta sotto Pasqua, non come te, piena di dolci cinesi terrificanti per il diabete. Noi siamo qui, non mangeremo nulla, non possiamo più a Radio 24 neanche mangiare la carne, perché sennò ci picchiano fuori, ci aspettano sotto. Quindi sai, fai meglio te come al solito, che ti farai la tua Pasqua non Pasqua cinese. Ma com'è la Pasqua non Pasqua cinese? Bah, non esiste, quindi qual è il problema? Partito l'ha abolita, non c'è, esatto. Quindi, no, assolutamente, quindi vabbè, a parte la cerchia ristretta degli expat italiani, ma insomma per il resto credo che... Ma io lo noi lo sappiamo che tu li frequenti poco perché preferisci i shishisbei cinesi, questo ce l'hai detto. Assolutamente sì. Assolutamente. Ce l'hai detto la prima puntata, che funziona così. Confesso, va bene così. E allora, invece, su che andiamo? Momenti duri per la Cina, devo dire. Momenti duri, vedo che c'è un certo deflusso che continua. Beh, di soldi, sì. soldi, cien, che poi è il motivo, cioè la cosa intorno alla quale ruota tutta la vita del cinese e dei cinesi, probabilmente anche del resto del mondo, perché comunque sappiamo che è un fattore molto importante. Però ecco, parlando di Conti della Belva e di Conti, c'è un tema che è ricorrente in questi ultimissimi tempi, con i quali la Cina sta facendo i conti e li farà sempre di più, e che è il fatto che la valuta, il tesoretto in valuta, che diciamo è sempre stata una cosa, un fiore all'occhiello, le riserve Cina, accumulate negli anni, soprattutto negli anni di vacche grasse, si sta assottigliando progressivamente. Ma perché? Perché lo yuan è impicchiata e quindi la banca centrale è costretta a intervenire, attingendo anche a queste riserve. E in cioè più, in realtà deve attingere le riserve proprio denaro, per difendere il cambio in maniera che si impedisca il deprezzamento su cui il mercato continua a scommettere, avendo qualche ragione. Esatto, vabbè, secondo alcuni sono solo speculazioni, gli speculatori vanno combattuti, ma la Cina ci sta rimettendo, cioè sta proprio cavando sangue, e questo sinceramente è un problema ulteriore, no? Che destabilizza l'impalcatura della Cina in questo momento di transizione molto importante. E io quando penso a questa situazione mi viene in mente Paperon dei Paperoni, vi ricordate, no? Seduto su trilioni, cose. Allora, così penso al governatore People's Bank of China, che ogni tanto è costretto a buttare all'aria qualche sacchetto di questi dollari sonanti, però fino a quando durerà non si sa. Io lo so che tu sei critica verso il grande Xiao Chuan, che io invece considero uno dei migliori governatori mondiali, a dire la verità, perché io non invio. Guardate che è complicatissimo stare alla testa di un meccanismo come quello dove bisogna. Altro che come si faceva col vecchio cinquino quando eravamo giovani, la doppietta, attacco e punta. Guardate che la quantità di decisioni che deve assumere talvolta nell'arco di un mese o di poche settimane sui tassi repo, le cose eccetera eccetera, il governatore centrale cinese di fronte alla complessità di quei dati e ai disastri che deve fronteggiare, è una roba da far tremare le vene, i polsi tremare a qualunque. No, polsi, è così, sì, ma è vero. Così è così, assolutamente. Infatti lui dovrebbe andare in pensione, ma non ci riesce ad andare, evidentemente. Ma dove lo trova un altro come il mitico Xiao? Un altro così è un po' difficile, anche perché deve essere persona di assoluta fiducia del presidente Xi Jinping, è un ruolo di quel tipo, chiaramente connetto, c'è proprio un link fortissimo con i vertici del Stato, chi gliel'avesse, ma che bello Rita, però scoprire che i comunisti non avevano capito così tanto, non avevano capito da non aver immaginato che in realtà al vertice totale del loro sistema ci sarebbe stato un banchiere centrale che decideva sui mercati. Cari comunisti, lo so, ma facendo anche delle cose abbastanza strane, perché ogni tanto ci sono, come dire, contraddizioni molto forti, si vede, è uno stop and go, si decide non la politica monetaria, cerchiamo di fare una politica più orientata su altre leve, e lui deve invece sempre immettere liquidità nel sistema, anche 1.000 miliardi di dollari solo in una settimana. Però Rita, se ci pensi, altro paradosso, è l'Occidente che sta chiedendo praticamente da metà dell'anno scorso ai cinesi, al Partito Comunista Cinese, al banchiere centrale comunista cinese, di fare la negazione di ciò che sta scritto nei libri su cui si insegna economia, sia mercato, finanziari, eccetera, eccetera, agli studenti. Cioè, noi stiamo implorando i cinesi a fare davvero i comunisti cinesi, cioè a far andare i mercati solo verso l'alto, le borse solo verso l'alto, a impedire che sia il mercato a determinare il valore dello yuan renminbi e così via. E loro dicono, cacchio, è l'Occidente che ci chiede di fare i comunisti qua, cioè di truccare i prezzi. È così o non è così? Certo che è così. Però anche un paradosso, perché questo è un paese che in teoria è sotto una bolla, ha una moneta che non è convertibile, esatto, ha un discorso di, come dire, veramente scarsa apertura agli investimenti, i bond, per comprare dei bond cinesi e di aziende cinesi, gli stranieri devono sottoporsi a delle forche caudine che ancora sono veramente qualcosa di particolare. Allora, com'è possibile che poi un battito di ciglia lì diventi un disastro? Vedi Rita, siamo arrivati a un sinceramente punto concreto. Cioè, chi ama il mercato deve ammettere l'idea che il mercato sia posto nelle condizioni di riallineare valori di bolla, che siano di tipo monetario, immobiliare, che riguardino le .com e così via. Quando viene qualcuno, un banchiere centrale, il professor Bagnai, chiunque a dire invece che a quel punto bisogna manipolare, ecco, il mercato non serve più, perché non è in grado di correggere il malinvestment, come lo chiama a quel punto Hayek e Mises. Io continuo a pensarla così, però invece la verità è che noi alla Cina stiamo dicendo: voi avete troppo debito e troppa riserve di valuta occidentale in mano da potervi permettere di riallinearvi con meccanismi di mercato, quindi non dovete farlo. Ma invece guarda, se posso, i privati cinesi sono molto più avanti di noi, perché stanno capendo che in questo contesto devono aprire l'economia, devono aprire... Sì, comprano all'estero, infatti. Infatti sto dicendo, stanno mandando pacchetti di soldi fuori da... Ed è una bellissima segnale che la borghesia imprenditoriale cinese... È più di mercato della nostra. Benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Però bisogna vedere da che canali lo fa, dai. Questo è un tema, se vuoi, di controlli e di verifica, però che lo stia facendo mi sembra evidentissimo, e per me è un segnale di indipendenza di una società civile cinese che, scusa, non aspetta più le indicazioni del partito per muoversi, e questo è un bel segnale. Ma va dove lo portano i rendimenti? Ragazzi, qua dobbiamo fare Radio 24 in mandarino. Non ci ho mai creduto che fossero comunisti. Esatto, mentre qua in Italia invece tornano di moda. Qui ci sono i politici candidati a Roma che dicono: no, ma le aziende quotate non devono perseguire il profitto, ci mancherebbe altro. No, ragazzi, viviamo in un mondo strano, perché caro Alberto, quelle ovviamente quotate col controllo comunale, non esiste, il profitto è una roba pessima. Vabbè. Però avete sentito della possibile applicazione della Tobin Tax anche sui guadagni a breve? Mamma mia, anche la Cina cerca di fare questa cosa, la Robin Hood, ma non so se ce la farà. Più che Robin Hood, visto gli effetti che quel tipo di cosa ha avuto nel nostro paese, però che non ha mai funzionato. Esatto. Poi quelle sono cose che non funzionano in maniera asimmetrica, funzionano solo per grandi blocchi continentali condivisi, perché altrimenti la fuga del rendimento è: mi sposto dove queste cose non ci sono, come esatto, e comincia il balletto globale. Come ovvio, le guerre delle valute. Allora, intanto, buona Pasqua, non Pasqua, e buon cicisbeo cinese. Grazie, Rita Fatiguso. Veramente... E noi torniamo tra un minuto. Abbracci, abbracci, Rita. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a cuore l'imposta. conti della belva. Ed eccoci tornati in quest'ultimo blocchetto in diretta pre-pasquale, qui dei Conti della Belva, tutti compari insieme vi salutano, però vi daranno gli auguri alla fine. Una telefonata prima di andare con il nostro Renato Cifarelli non si può fare. Sandro da Roma, Sandro, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io ho telefonato per, come dire, per creare un collegamento tra ISIS e banche. Ah. No, è una riflessione, nel senso che... Chi osserva in maniera un po' più attenta la questione dell'estremismo islamico avrà ben compreso che il problema non è soltanto quattro pazzi che vanno a mettere le bombe, beh, sì, ma è un qualcosa che trae la sua origine da una visione sociale e anche economica diversa che in un modo più o meno legittimo si tenta di imporre anche ad altri, cioè a noi. E la riflessione è che siccome il modello della finanza islamica, delle banche e della finanza islamiche sono un qualcosa che trova riferimento anche a certi atteggiamenti populistici che ci sono qui in Occidente nei confronti delle banche, il rischio è che nel momento in cui determinati contenuti della finanza islamica, che sappiamo bene la finanza è parte integrante, è una delle colonne, cioè dice, gli elementi della finanza islamica caratteristici potrebbero diventare una valvola di sfogo della sfiducia totale del sistema finanziario e bancario, sì, degli occidentali, se mi permette, nel se nostro mi permette, paese. Allora, è una costruzione un po', ecco, azzardata, per così dire, perché poi il problema è che dietro invece lì c'è una lotta tra paesi sunniti, paesi sciiti, tra l'Iran per dirci e la monarchia del Golfo e l'Arabia Saudita, che è una guerra tra virgolette vera, ed è una guerra tra sistemi che hanno i loro equilibri politico, economici, finanziari, interessi non proprio convergenti sui prezzi del barile, del gas e così via. E temo che questo sia un aspetto anche fortissimo da tenere in considerazione, ma purtroppo torneremo ad occuparci. Renato! Oggi sono terrorizzato. Perché? Perché, no, allora, devo dire che sono arrivato qua che non avevo ancora letto il Corriere, poi tu mi hai segnalato un articolo di Gian Antonio Stella. Questa prodigiosa norma. E ho scoperto che i container dovranno essere pesati a raso. Uno per uno. A raso vuol dire sulle pese. Quella, a ogni entrata di città, una volta per i dazi, sì, c'era la pesa. Hai capito? No? Roba del 600 e 700, allora, però. Ecco. È una cosa che fa 20 container all'ora. No? E secondo i burocrati italiani, capite? Cioè dei container che a pieno possono pesare 28 tonnellate, secondo loro non devono sforare se non più di 20 kg. Cioè, e bisogna pesarli uno per uno. 20 kg. Allora, tieni conto che se tu ci lasci sui bulloni che servono, esatto, per collegarlo finito, al camion e ti dimentichi di togliere i bulloni, sono 20 kg. Ma io mi pongo il problema di noi che in azienda dobbiamo dare il peso esatto a 20 kg di un container che viene riempito. Allora, tieni conto che noi facciamo circa un container al giorno. Ma chi è il burocrate che ha scritto cose simili? Ma cioè, com'è possibile? Non ha la minima idea di... Non ha mai visto un porto, un interporto, di che cos'è una filiera logistica? Non sanno nulla, ma fanno le leggi. No, ma poi... cioè, la cosa terribile è a raso. Quindi il camion deve arrivare lì, si mette sulla pesa, viene tolto il container per fare... Poi deve tenere il motore spento, perché con quello che consuma un camion, fra un po' ci sono 20 kg di nafta se rimane lì 5 minuti. Cioè, è una cosa che è di un'assurdità pazzesca. Cioè, non rischiano di fermare i porti. No, ma questo è il classico esempio di norma italiana, partorita da qualcuno che non ha la minima idea di che cosa stia trattando. Gli altri stanno parlando del 5% più o meno. È nata per non essere applicata mai. È la classica grida manzionale italiana. Serve per abbattere qualche pianta in più o stampare le gazzette ufficiali. Ma è ovvio che è questo. Gli altri stanno parlando del 5%. Cioè 5% come forbice di variazione. Del 28 tonnellate, fatti conti di quanto fa. Cioè, non di sicuro 20 kg. Ma 20 kg, secondo me, non riesci ad averlo sul container. Cioè, io ripeto, movimentiamo circa un container al giorno, mediamente. Arrivano dei container dentro che sono sporchi. Cioè, no, è ovvio che ci può essere. Puoi avere 20 kg di polvere dentro un container a 40 piedi. Cioè, una roba completamente assolutamente. Comunque, cari ragazzi, questo bel regaletto di Pasqua, cioè, questi si svegliano la mattina, non sanno cosa fare, è la classica dimostrazione del paese reale rispetto a quello che ci raccontano essere quello in cui c'è la grande riforma della pubblica amministrazione. Ah, tra l'altro, complimenti alla sincerità del ministro Madia, che questa settimana a Repubblica, pizzicata da un ottimo articolo di Repubblica che diceva: beh, guarda che qui la tua riforma non porta nessun effetto, lui dice sì, in effetti non potrà portarne prima di 2 anni, tra 2 anni ne parliamo. Almeno ogni tanto un ministro della Repubblica che dice cose come stanno. Caro Alberto, ma tu riesci a far Pasqua da qualche parte o stai lì a piedi sull'autostrada con la moto rotta? No. Lavoro qui. Ti vengo a prendere con l'Harley, se vuoi. C'è qualcuno sotto la redazione? Perché io ero venuto lì col cetriolo, veramente. No, oggi possiamo, sì, credo, solidarietà a questa lame di Giuseppe. No, ma solidarietà assoluta. Io, se volete, la ripetiamo tutti insieme, ma io sono il primo a darla tutti i giorni. Devo dire che ieri la discesa col salame in mano è stato uno spettacolo. Geniale. Però, diciamo anche Sebastiano Barisoni, mediatore culturale, è una cosa fantastica. No, Radio 24, cari ascoltatori, non vi fa mancare nulla. Spettacolo, intrattenimento, toni alti, toni bassi, ironia, urla e lotte, salame alla mano, in nome del vostro diritto di poter consumare agnelli e capretti e anche di non consumarli, se questa è la vostra idea. Comunque, un augurio da parte mia e di Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Carlo Alberto Cremale Maffei. Buona Pasqua a tutti, continuiamo con Radio 24. Ovviamente io riprendo già il lunedì pomeriggio la versione di Oscar, e martedì mattina poi con Attenti alle 2 alle 8:15 con Alessandro Milano. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.